Torniamo in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa da Piazza Farnese, dove c'è la manifestazione organizzata dalla comunità curda, come vi abbiamo anticipato. Pronto, ci senti? Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao, siamo qui a Piazza Farnese, c'è la manifestazione, appunto, come hai detto, organizzata dalla comunità curda. Ci sono parecchi compagni, non so calcolare, e hanno molte bandiere, oltre a quella di Ocalan, anche le bandiere dell'organizzazione delle donne curde. E quelle gialle sono del presidente Ocalan, e quelle delle donne curde, che sono rossa con un sole, insomma ci sono dei simboli molto carino. E qui abbiamo con noi la rappresentante dell'ufficio di informazione curda qui in Italia, e se ve la passo così vi spiega alcune cose, parla italiano, ok? D'accordo, grazie. Sì. Dai. Pronto? Sì, ciao, pronto. Salve, sono presidente dell'ufficio di informazione del Kurdistan Islam. Noi oggi siamo qua davanti all'ambasciata francese per biasimare il massacro che è stato fatto l'anno scorso, proprio queste ore, il 9 gennaio verso 12:30. Sono stati assassinati 3 donne curde, in quale tutte e 3 erano rappresentanti della generazione del popolo curdo e anche del movimento della liberazione dei Kurdistan e anche delle donne. Questo massacro è stato fatto per demoralizzare, per proprio annientare la popolazione curda anche in Europa, per dimostrare in quanto i stati che stiamo lottando contro quanti sono bravi, quanto sono forti, però in realtà hanno dimostrato in quanto sono contro la democrazia, contro la libertà di vita e anche contro la donna e anche l'identità di un popolo, perché Sakineh rappresenta una donna di lotta, una donna coraggiosa che è stato anche una delle fondatrici del Partito Lavoratore del Kurdistan PKK. Fidan era una donna che ha vissuto per anni in Europa, si è messo ad affare come membro del Congresso Nazionale Curdo, a lottare, a dimostrare in modo diplomatico, in modo pacifico, per far riconoscere il popolo curdo. Leila è una donna che ha vissuto per anni in Germania, era una giovane curda che voleva proprio dimostrare la sua volontà di pace organizzando per i giovani, per una generazione nuova. Tutto questo è stato fatto per portare avanti una lotta di un popolo, e questi assassini contro queste donne noi come curdi vediamo come un attacco all'intera popolazione. Anzi, Ocalan ha detto un massacro di Dersim, perché Sakineh era di Dersim, anche era una levita che ha vissuto già un massacro. Per questo siamo qua oggi a chiedere addirittura la verifica di questo assassinio, di trovare assassini e collegamenti di tutti quelli che hanno fatto. È un chiarimento, vogliamo identificare, interpretare e giudicare gli autori e i mandatori di questo omicidio politico, e anche denunciare l'accordo di sicurezza firmato tra l'autorità turca e anche francese. E tutto questo in realtà è un proseguimento di una lista terroristica che in realtà non ha nessun significato anche in Europa, che anche il PKK fa parte di questo, è stato messo, per questo richiediamo di rimuovere il PKK dalla lista terroristica per poter portare il processo di pace che adesso in Turchia da un anno che è cominciato. Dicendo questo, voglio ricordare che questo omicidio è stato fatto proprio nei giorni in cui il presidente Ocalan stava cominciando a parlare con lo Stato turco, una delegazione di Erdogan. Certo che sappiamo, in Turchia adesso, proprio questi giorni, ci sono due stati parallelamente. E questo omicidio, pensiamo che uno di questi stati paralleli è stato fatto solo per bloccare, per non cominciare un processo di pace in Turchia tra i curdi e turca. Per questo chiediamo a tutti coloro che chiedono la democrazia, chiediamo di mettersi in piazza, di chiedere la verità, la giustizia sia per il popolo curdo, cominciando da questo omicidio, perché per noi è molto importante la verifica, la verità di questo omicidio che viene dichiarato dalle autorità turche, anche da francesi, perché è stato fatto a Parigi, nel cuore di Europa. Tutti gli europei, quelli che sono solidali al popolo curdo, devono sapere che la democrazia comincia interno, comincia proprio dimostrando la solidarietà quando i curdi stanno in piazza, gli altri popoli che stanno in piazza. Per questo, se vogliamo un mondo libero per tutti, dobbiamo metterci in mezzo a chiedere, a far portare proprio questo mondo, un mondo vero e giustizia. Senti, sentiamo Grazie. Degli slogan in sottofondo, ci puoi dire cosa viene urlato? Sì, loro dicono siamo tutti Leyla Şaylemez, siamo tutti Sakine Cansız, siamo tutti Fidandogan, per dimostrare che siamo con loro, perché non nessuno ci può bloccare a chiedere gli omicidi. Noi continueremo la loro lotta che hanno già fatto e seguiremo fino in fondo. Senti, rimarrete... Viva Öcalan, pace in Kurdistan, e dicono vogliamo giustizia, verità, ci sono anche proprio i cartelli dove dice verità e giustizia per Sakine, Fidan e Leyla. C'è anche in francese ci sono lo slogan, e ci sono le bandiere insieme alle foto, e siamo Leyla Fidan, tre donne, tre vite spezzate ignorabilmente, tre proiettili contro l'umanità, l'infinito massacro del popolo curdo. Senti, rimarrete in piazza ancora un paio d'ore? Sì, fino alle 2 saremmo qua. Bene. E ti ringraziamo per questo collegamento. Grazie. E insomma Radio Onda Rossa è in piazza solidale con questa lotta. Grazie, tutti insieme. Ciao. Tutto bene? Tutto bene, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Sentita, perché io l'altro giorno ho dato l'avviso di questa manifestazione, no, gli ho mandato pure l'appello, stamattina ho fatto...